5G. Ascolta e rispondi. Linda vuole insegnare, vero? Sì, vuole insegnare canto. Fabio vuole fare un viaggio, vero? Sì, vuole fare un viaggio in Australia. Matteo vuole scrivere, vero? Sì, vuole scrivere un romanzo. Stefania vuole cantare, vero? Sì, vuole cantare una canzone. Lucia vuole studiare, vero? Sì, vuole studiare medicina. Luca vuole invitare gli amici. E tu? No, non voglio invitare gli amici. Marta vuole vendere la casa. E tu? No, non voglio vendere la casa. Antonio vuole comprare la macchina. E tu? No, non voglio comprare la macchina. Alberto vuole ordinare la pasta. E tu? No, non voglio ordinare la pasta. Maria vuole cambiare il corso. E tu? No, non voglio cambiare il corso.